Ciao, siamo a Fredda Verona, grazie. Yeah. Ogni volta che vado a ballare ci sarà sempre qualcuno che fa il robot. Thank you. Questa è una canzone nuova. Prossima, l'ultima, grazie a tutti voi per essere qui, a chi ha organizzato, tutti gli altri gruppi. Afraid. Grazie a tutti. Grazie.